La sera che Luigi XVIII diede il primo ballo di corte alle Tuileries, avevo il raffreddore. Non un raffreddore vero, si intende. Mi misi a letto come quella volta prima dell'incoronazione di Napoleone e mi finsi malata. Maria mi portò del latte e del miele. Il latte col miele mi piace in tutti i casi. E incominciai a leggere i giornali. Il Moniteur descriveva la partenza di Napoleone per l'Elba. Il 20 aprile le carrozze da viaggio sono giunte nel cortile del Caval Bianco di Fontainebleau. Non era presente neppure un maresciallo. Comparve l'imperatore e il generale Petit si avanzò e gli presentò una delle aquile dorate. Napoleone baciò la bandiera che pendeva sotto l'aquila, poi montò in una carrozza nella quale l'attendeva il generale Bertrand. Nient'altro. Così almeno racconta il Moniteur ai suoi lettori. Nel Journal des Débats, invece, ho trovato un interessante articolo sul principe ereditario di Svezia. Ho letto che il principe avrebbe intenzione di divorziare da sua moglie Désirée Clary, sorella di Madame Giulia Bonaparte. Dopo il divorzio, l'ex principessa ereditaria di Svezia continuerebbe a vivere nella sua casa in Rue d'Anjou a Parigi sotto il nome di contessa di Gotland. Il principe, invece. Io trangugiai il latte caldo col miele. Il principe invece avrebbe la scelta tra una principessa russa e una principessa prussiana. Nel Journal des Débats si accennava perfino alla possibilità di un imparentamento con la casa Borbone, poiché l'entrata dell'ex maresciallo Bernadotte in una dinastia legittima avrebbe una grande importanza per il futuro della Svezia. Il latte non mi sembrava più tanto dolce e di giornali inoltre non volevo più leggerne. Mi tornò in mente il primo ballo di corte dei Borboni. È strano che Giambattista ed io vi siamo stati invitati. Cioè, no, è assolutamente logico. In fin dei conti, Giambattista ha comandato una delle tre armate che hanno liberato l'Europa. Per di più, è figlio adottivo del re di Svezia. Chissà se Giambattista ha accettato l'invito. Dopo quella prima notte non siamo quasi mai stati insieme da soli. Naturalmente sono andata a trovarlo più volte al quartier generale svedese nella Rue Saint-Honoré. Davanti all'edificio sono appostati i cannoni. Dei dragoni svedesi armati di tutto punto montano la guardia. Nella sua anticamera una volta ho incontrato Fouché e tre volte Talleyrand. Anche il maresciallo Ney aspettava pazientemente. Nel salotto, invece, il cancelliere Wetterstedt, l'ammiraglio Stedding e i generali svedesi parevano sempre occupati in trattative interminabili. Giambattista stava curvo sulle carte e dettava delle lettere. Nel pomeriggio di oggi abbiamo dato, noi due, un ricevimento in onore dello zar nella Rue Saint-Honoré. Con mio sgomento lo zar condusse con sé il conte d'Artois, il fratello del nuovo re di Francia. Il conte d'Artois ha una faccia volgare, dura e porta ancora la parrucca. I Borboni cercano di dare ad intendere che la rivoluzione non avrebbe cambiato nulla. Luigi XVIII comunque ha dovuto promettere di prestare giuramento alle leggi della Nuova Francia, sul codice Napoleone. Il conte di Artois si precipitò incontro a Giambattista. Altezza, la Francia vi deve eterna gratitudine, caro cugino. Giambattista diventò bianco e già il Borbone si volgeva a me. Vostra Altezza interverrà certo questa sera al ballo di corte alle Tuileries. Mi premetti il fazzoletto sul naso. Temo che un raffreddore di primavera. Lo zar era impensierito e mi augurò buona guarigione. E adesso me ne sto a letto. Mentre gli invitati si raccolgono nel salone delle feste alle Tuileries e ammirano le nuove tende bianche e azzurre ricamate a gigli. L'orchestra di corte accorda gli strumenti. Intorno tutte facce ben note. Napoleone voleva della buona musica da ballo. Le porte a due battenti si spalancano, le toilette delle dame frusciano negli inchini d'etichetta. E la Marsigliese? Proibita, naturalmente proibita. Pesantemente il nuovo Luigi si appoggia al bastone. Sotto le bianche calze di seta le bende gli fasciano i polpacci enfiati. Soffre di idropisia e cammina a stento. Il vecchio signore contempla, stanco, la sala. Qui, dunque, i parigini hanno calpestato suo fratello. Da questa sala lo hanno trascinato fuori, da questa sala. Ora, il nuovo maresciallo di corte annunzia i nomi degli invitati. Il vecchio signore tiene il capo reclinato, per udire meglio. Prima i principi alleati. Noi vi ringraziamo, noi dobbiamo a voi se possiamo stare in questa sala. E qui È con certo Giambattista Bernadotte, fanatico repubblicano e principe ereditario di Svezia. Noi abbracciamo il nostro benemerito cugino, le danze incominceranno subito, Altezza. Il corso dei miei pensieri è interrotto. Grazie al cielo, qualcuno sale le scale. Strano, pensavo che tutti fossero già andati a letto. Qualcuno fa gli scalini a due. Spero di non averti svegliata, ragazzina. Niente uniforme di gala, né mantello di velluto, soltanto l'uniforme blu scura da campagna. Ma non sei mica malata davvero, Desirée? Naturalmente non lo sono. E tu, Giambattista, il nuovo re, ti ha invitato alle Tuileries? È curioso che un antico sergente abbia più tatto che un borbone, non ti pare? Pausa. Peccato che tu sia già coricata, ragazzina. Volevo congedarmi. Adesso viene, signori Dio, adesso viene, perché parto domattina. Il cuore mi martellava forte. Già domani mattina. Qui ho assolto il mio compito e sono entrato da vincitore. Si può chiedermi di più? Inoltre i commissari degli alleati hanno firmato il mio accordo con la Danimarca. Le grandi potenze riconoscono la cessione della Norvegia alla Svezia, ma figurati, Desirée, i norvegesi non vogliono. Questo dunque è il commiato. Io sono coricata. Una candela vacilla e lui parla della Norvegia. E perché non vogliono? Perché non ammettono che altri decida del loro destino. Eppure offro loro la più liberale costituzione del mondo. Prometto di non mandare a cristiani a un solo funzionario svedese, ma essi hanno convocato il loro Storting e... Che Ting hanno convocato? Lo Storting, l'Assemblea Nazionale Norvegese. Vogliono essere indipendenti, forse addirittura una repubblica. E tu lasciali fare. Non posso vedere la sua faccia. Tiene la testa bassa e gli occhi sono nell'ombra. Giambattista, è proprio il congedo questo. Lasciali fare, lasciali fare. Come fai presto tu? Prima di tutto la Svezia e la Norvegia costituiscono un'unità geografica. In secondo luogo io ho promesso l'unione agli svedesi. In terzo luogo essi si consoleranno così della Finlandia perduta. In quarto luogo io non posso deludere gli svedesi. In quinto luogo, meno adesso che mai, mi capisci finalmente? Ma il Parlamento svedese ti ha scelto ormai definitivamente come successore al trono, Giambattista. E il Parlamento svedese può escludermi ancora definitivamente dalla successione e richiamare i principi Vasa. Così con i Borboni sono tornati legittimisti, bimba mia. Cacciate via il generale Giacobino, richiamate le antiche dinastie, dimenticate questi ultimi 20 anni. I suoi occhi caddero sul giornale che tenevo sul comodino. Distrattamente sfogliò il Journal des Débats e a un tratto incominciò a leggere. Il cuore mi stava greve e duro come una pietra nel petto. Con un matrimonio potresti entrare a far parte di un'antica dinastia, Giambattista, dissi io. E poiché continuava a leggere il Journal des Débats, ma non avevi ancora letto questo articolo? No, non ho proprio tempo per le storie scandalistiche, pettegolezzi di corte, disgustose fandonie. Buttò il giornale sul comodino e mi guardò. Peccato, ho giù la nostra carrozza che aspetta e ti volevo portare. No, lasciamo andare, probabilmente sei già stanca. Vuoi congedarti e vuoi farmi una proposta? La mia voce era atona, ma mi ripresi subito. Dimmi quel che mi devi dire, ma dillo subito, altrimenti ammattisco. Mi guardò meravigliato. Ma non è una cosa molto importante, volevo soltanto farmi condurre con te per le vie di Parigi, ancora una volta. Per l'ultima volta, Desirée. Per l'ultima volta, bisbigliai io, perché non tornerò mai più a Parigi. Dapprima credetti di non aver udito bene, poi incominciai a piangere. Che cos'hai, Desirée? Non ti senti bene? Credevo che volessi divorziare, singhiozzai e buttai via la coperta. E adesso mi vesto in fretta. Andremo insieme in carrozza per le vie, Giambattista, non è vero? Insieme. La vettura correva lungo la Senna. Era una carrozza scoperta. Io posai il capo sulla spalla di Giambattista e sentivo intorno a me il suo braccio. I lumi di Parigi danzavano sull'acqua nera. Giambattista disse al cocchiere di fermarsi. Scendemmo e a braccetto passammo sul nostro ponte, poi ci sporgemmo dal parapetto. E ancora sempre così, dissi rattristata, io ti faccio vergognare, prima nel salotto della Tayenne, poi nel salotto della regina di Svezia. Perdonami, Gian Battista. A me non importa, mi spiace tanto solo per te. Le stesse parole di allora, solo che adesso lui mi dà del tu e non del voi. Le parole del nostro primo colloquio mi tornarono in mente. Senza volerlo gli domandai: conoscete personalmente il generale Bonaparte? Involontariamente rispose: sì, mi è antipatico. Mi sporsi fuori e parlai con le luci danzanti. Mi sono tirato su dalla gavetta, mademoiselle. Mi sono arruolato a 15 anni e poi sono stato lungamente sottufficiale. Adesso sono generale di divisione, mademoiselle. Mi chiamo Giambattista Bernadotte. Da molti anni ho risparmiato una parte del mio stipendio. Potrò comprare una casetta per voi e per il bambino. Mi hai detto tutto questo allora, ricordi? Certamente. Piuttosto vorrei sapere come ti eri immaginata il tuo avvenire, Desirée. Dapprima balbettai. Poi le parole sgorgarono. Se credi che sia necessario per te e per Oscar che tu divorzi da me e sposi una principessa, ebbene, divorzia pure, io non pongo che una condizione. E cioè, diventare la tua amante, Gian Battista. Impossibile, non posso instaurare alla corte di Svezia una relazione con un amante. E poi non me la posso permettere, un amante, ragazzina mia. Tu devi restare mia moglie, Desirée, qualunque cosa succeda. La nostra senna mormorava, come una musica, come un valzer sommesso. Anche se succede il peggio, anche se diventi re? Sì, cara, anche quando diventerò re. Lentamente ritornammo alla nostra carrozza. Potresti farmi un favore, forse? Smettere di vendere personalmente della seta? Disse ancora. Poi, davanti ai nostri occhi, emerse Notre Dame. Ferma! Muto Gian Battista fissò la cattedrale. Aperse anche le labbra come se volesse bere l'immagine. Poi chiuse gli occhi per rinchiudere in sé Notre Dame. Avanti! Darò incarico a Pierre di incassare regolarmente la mia quota della ditta Clary, dissi io. Pierre resta da me come mio maestro di casa. Nominerò Mario Clary mio maresciallo di corte e dama di corte Marcellina Tascher. Licenzierò la La Flotte. Sei contenta del conte Rosen? Privatamente sì, non commercialmente. Cioè? Sai, il conte Rosen non sa neppure fare un pacco. Dapprima l'ho condotto con me al magazzino, soltanto per via dei prussiani. I prussiani saccheggiavano, resti tra noi. Ma siccome in questo momento non abbiamo un apprendista, doveva. Desirée, non vorrai fare del tenente dei dragoni conte Rosen un apprendista di negozio? Alzai le spalle. Non potresti mandarmi un aiutante che non sia conte di nascita? Non ci sono dei parvenu alla corte di Svezia? Solo i Bernadotte, rise Gian Battista. E il barone Fetterstedt, ma quello è cancelliere del regno e serve a me. Si piegò in avanti e gridò un indirizzo al cocchiere. Ci facemmo portare a Chaillot per rivedere la nostra prima casa. Le stelle erano limpidissime. Dietro ai muri del giardino fiorivano i lilà. Ho fatto questa strada 2 volte al giorno a cavallo, quando ero ministro della guerra. Poi di punto in bianco, e quando potrò attenderti a Stoccolma, mia altezza reale? Non ancora. Le sue spalline mi graffiavano la guancia. I prossimi anni saranno piuttosto duri per te, non voglio renderti ancora più difficile la vita. Tu sai come io sia poco adatta alla corte di Svezia. Mi guardò severo. Intendi dire con questo che non vuoi imparare il cerimoniale della corte svedese? Quando verrò, sarò io stessa a risolvere tutte le questioni di etichetta, dissi lentamente. La carrozza si fermò nella Rue de la Lune numero 3 a Chaillot. Nella nostra casa abitano degli estranei. Pensai, al primo piano è nato Oscar. E Gian Battista. Nello stesso momento diceva, figurati, Oscar deve già radersi 2 volte alla settimana. Vedemmo che il vecchio castagno del giardino recava già i suoi fiori a candela. Nel ritorno ci sentimmo così vicini che non parlammo più affatto. Solo quando la carrozza entrò nella Rue d'Anjou, Gian Battista disse improvvisamente, deciso, non hai altre ragioni di rimanere qui, Nessun'altra ragione, davvero. Oh sì, Giambattista, qui c'è bisogno di me e là sono inutile. Devo aiutare Giulia. Ho battuto Napoleone a Lipsia e tuttavia non riesco a liberarmi di questi Bonaparte. Si tratta di Clary, dissi io risentita. Ti prego, non dimenticarlo. Per l'ultima volta la carrozza si fermò. Tremendamente presto. Giambattista scese con me e contemplò la casa, attentamente, in silenzio. Le due sentinelle presentarono le armi. Porsi la mano a Giambattista. Le sentinelle guardavano. Qualunque cosa dicano i giornali su certe voci, si portò le mie mani alle labbra. Non devi crederci, capisci? Peccato. Sarei diventata tanto volentieri la tua amante. Ai! Giambattista mi aveva morso un dito. Purtroppo le sentinelle avevano visto. Parigi, il lunedì di Pentecoste, 30 maggio 1814, sera tardi. Niente più spiacevole per me delle visite di condoglianze, per di più in una radiosa domenica di Pentecoste. Ieri sera mi si fece annunciare la dama di corte della Malmaison tutta in lacrime. Giuseppina è morta sabato a mezzogiorno per una grave infreddatura che si era presa 2 o 3 giorni prima, passeggiando la sera nel parco della Malmaison al braccio dello zar. La sera era molto fredda, ma l'imperatrice non aveva assolutamente voluto indossare un mantello. Sua maestà portava un abito nuovo di mussolina ed era molto scollata. Si era messa soltanto un foulard, sottilissimo e trasparente. Quella mussolina, la conosco, Giuseppina. Troppo leggera per una sera di maggio. Viola, non è vero? Veste così bene ed è un po' melanconica. Hortensia ed Eugenio Beauharnais erano dalla loro mamma. La ex dama di corte mi porse una lettera. «Portami, ragazzi, il mio solo conforto», scriveva Hortensia, con molte sottolineature e punti esclamativi. Così questa mattina, con Giulia e con i due figli della ex regina d'Olanda, mi sono fatta condurre alla Malmaison. Cercammo di far intendere ai ragazzi che la loro nonna aveva cessato di vivere. Forse non è proprio morta, forse lo dà solo ad intendere agli alleati e di nascosto andrà dall'imperatore all'isola d'Elba, immaginò Carlo Napoleone. Nel Bois de Boulogne il vento ci recava estate e fiori di tiglio nella carrozza. Sembrava incredibile che Giuseppina non fosse più in vita. Alla Malmaison trovammo Hortensia in vesti nere, di gran lutto, livida, col naso arrossato dalle lacrime. Solennemente si buttò prima nelle mie braccia, poi tra le braccia di Giulia. Eugenio de Beauharnais era seduto ad un piccolissimo scrittoio da signora e rovistava in un mucchio di foglietti. Il timido giovane, di volta in volta, era stato nominato da Napoleone vice re d'Italia e costretto a sposare una figlia del re di Baviera. Si chinò rigido sulle nostre mani, poi accennò allo scrittoio e agli innumerevoli foglietti e sospirò: «Non riesco a comprendere. Tutti conti da pagare per abiti, cappelli e piante di rose». La bocca di Hortensia era una linea diritta. Alla mamma non è mai bastato il suo appannaggio. Oltre ai 2 milioni che dopo il divorzio le corrispondeva ogni anno lo Stato, l'imperatore le ha messo a disposizione 1 milione della sua lista civile, eppure... Si passò le mani nei capelli, desolato. «Hortensia, questi debiti sono di milioni. Vorrei sapere chi li pagherà». «A questo non interessa alle signore», disse Hortensia, e ci invitò ad accomodarci. Rigide e mute sedevamo sul soffà di seta bianca di Giuseppina. Le porte sul giardino erano aperte, il profumo delle rose di Giuseppina entrava a fiotti. L'imperatore di Russia è venuto a rendere omaggio alla mamma e la mamma lo ha invitato a cena. Hortensia si permette un fazzoletto sugli occhi asciutti. Credo che volesse pregarlo di occuparsi dei miei figli, che non hanno più protezione. Lo sapete che adesso io sono divorziata, non è vero? Annuimmo cortesemente. Comparve l'amante di Hortensia, il conte Flahol, il figlio illegittimo che lei gli ha partorito, viene ora educato in casa di un conte Morny. Eugenio de Beauharnais continuava a stropicciare i conti non pagati della morta Giuseppina. A quanto pare la mamma da parecchi mesi non ha più pagato il Salon Leroy, Eppure si è ordinata 26 toilette. Domando io che cosa ne faceva la mamma nella sua solitudine di 26 toilette. E continuava a fissare le note. Sua sorella alzò con disprezzo le spalle. L'unico uomo che Ortensia ha mai amato è stato il marito di sua madre. Volete vederla? Domandò ad un tratto. Giulia scosse il capo. Sì, dissi io senza riflettere. Conte Flahol, accompagnate di sopra Sua Altezza Reale. E salimmo al primo piano. La cara estinta giace ancora nella sua camera da letto, bisbigliò. Qui, prego, entrate, Altezza. Le candele ardevano senza vacillare, le imposte erano tutte chiuse. Vi era un inebriante odore di incenso, di rose e dell'acuto profumo di Giuseppina. A poco i miei occhi si avvezzarono alla penombra, come enormi uccelli neri delle monache. Stavano accoccolate ai piedi del letto largo e basso e mormoravano le preghiere dei defunti, monotone, gorgoglianti. Dapprima ebbi paura di guardare la morta, ma poi feci forza e mi avvicinai. Riconobbi il manto dell'incoronazione, disteso in soffici pieghe sul letto, come una buona, calda coperta. La mantelletta d'ermellino le era stata messa sul petto e sulle spalle, balenava giallognola nel lume delle candele, giallognola come il viso della morta. No, Giuseppina non incuteva paura, neppure muoveva il pianto. Era troppo bella per questo. La sua piccola testa era un po' reclinata da una parte, proprio come l'aveva tenuta lei tante volte nel lanciare un'occhiata ad un uomo di tra le lunghe ciglia scure. Neppure gli occhi erano proprio chiusi, ma rilucevano sotto il velo delle palpebre. Soltanto il naso sottile appariva duro e tagliente, ma tanto più dolce era il sorriso della sua bocca chiusa che neppure da morta tradiva il segreto dei denti guasti. No, Giuseppina morta non tradiva alcuno dei suoi segreti. Le cameriere avevano per l'ultima volta arricciato in ciocche infantili i radi capelli della 51enne, per l'ultima volta crema d'argento sulle palpebre che si erano chiuse per sempre e rossetto alle guance giallastre sulle quali guizzava il lume delle candele. Come sorrideva dolce Giuseppina nel suo sonno eterno, dolce e civettuola e così charmante, disse qualcuno proprio accanto a me. Un vecchio signore, dalle guance flosce e dai bei capelli d'argento, era certo uscito dal buio di un angolo. Mi chiamo Barrà, si presentò e si portò un occhialino davanti agli occhi. Ho forse l'onore di conoscere Madame? Molto tempo fa, dissi, eravate insieme nel salotto del generale Bonaparte. Voi eravate allora direttore della Repubblica, Monsieur Barrà. Lasciò cadere l'occhialino. Questo mantello dell'incoronazione Giuseppina lo doveva a me. Tu sposi il piccolo Bonaparte, io lo nomino governatore di Parigi e il resto verrà da sé, cara. Cara Giuseppina, le ho detto. Come sapete, madame, il resto è venuto, ridacchiò sommesso. Eravate sua intima amica, madame? No. Lei mi ha spezzato il cuore, monsieur, pensai, e incominciai a piangere. Un pazzo quel Bonaparte, un pazzo! Sussurrò il vecchio signore e con un gesto delicato della mano spianò una piega del mantello di porpora. Dall'unica donna con cui non ci si annoiava nella più solitaria delle isole, lui ha divorziato. Sulla mantelletta d'ermellino dell'imperatrice dei francesi erano state deposte delle rose rosse. S'erano avvizzite al chiarore delle candele e odoravano dolorosamente. Il loro profumo mi serrò le tempie. Le ginocchia mi mancarono e di colpo crollai presso il letto di Giuseppina e nascosi il volto nel mantello imperiale. Non piangete per Giuseppina, madame. Giuseppina è morta come è vissuta, al braccio di un potentissimo uomo che in una sera di maggio tra i rosai della Malmaison le ha promesso di pagarle tutti i debiti. Hai udito, cara? Cara Giuseppina? Quando mi rialzai, il vecchio signore era di nuovo scomparso nel suo angolo buio. Non si udivano più che funebri preghiere. Salutai ancora con un cenno del capo Giuseppina. Le sue lunghe ciglia parvero tremolare un istante ed ella sorrideva con le labbra chiuse. Quando giunsi di nuovo al pian terreno, Eugenio stava rivolgendosi accigliato a Giulia. Un abito da mattina con pizzi di Bruxelles con la sua cuffietta. Costa davvero 20.000 franchi, madame? Mi diressi subito verso la porta aperta che portava al giardino. Il sole era così cocente che l'aria ne tremava. Fiorivano le rose di tutti i colori e ad un tratto mi trovai presso un minuscolo lago artificiale. Sull'orlo di pietra stava seduta una ragazzina e guardava i buffi anatroccoli che agitati e smarriti nuotavano al seguito di una grassa anitra madre. Mi sedetti proprio accanto alla bambina. La piccola aveva i capelli bruni che le ricadevano in ciocche a spirale fin sulle spalle e portava una veste bianca con una sciarpa nera. Quando ella alzò la testa e mi guardò di sbieco, mi si fermò il cuore. Aveva lunghissime ciglia sugli occhi a mandorla e un visino dolce come un cuore. La bambina cominciò a sorridere. Sorrideva con le labbra chiuse. Le chiesi: «Come ti chiami?» «Giuseppina, madame». Aveva gli occhi azzurri e dei bellissimi dentini come perle. La sua pelle era molto chiara e tra i capelli folti balenavano luci dorate. «Giuseppina!» «Eppure non Giuseppina!» «Siete una dama di corte, madame?» «No, perché mi domandi questo?» «Perché la zia Ortensia ha detto che viene a trovarci la principessa ereditaria di Svezia. Le principesse portano sempre con loro le dame di corte. Naturalmente quando sono principesse grandi. E le principesse piccole?» «Oh, quelle hanno le governanti», disse la bimba e riprese a guardare gli anatroccoli. «Gli anatrini sono così piccoli. Credo sono sgusciati solo ieri dalla pancina della loro mamma». «Che cosa dici? Gli anatrini escono da un uovo». La bimba sorrise con degnazione. «Non dovete contarmi delle storie, madame». «Ma escono proprio da un uovo?» insistetti. La bimba annuì, annoiata. «Come volete, madame». «Sei la figlia del principe Eugenio?» «Sì, ma forse papà non è più principe. Se va bene, gli alleati gli daranno un ducato in Baviera. Mio nonno, il padre della mia mamma, è il re di Baviera». «Allora tu sei in ogni caso una principessa», sentenziai io. «Dov'è la tua governante?» «Le sono scappata», disse la bambina e tuffò la mano nell'acqua. D'un tratto le venne in mente qualche cosa. «Se non siete una dama di corte, dovete essere una governante». «Perché?» «Beh, dovete pure essere qualcuno». «E se fossi anche una principessa?» «Impossibile. Non ne avete l'aria». Le sue ciglia tremolavano. Reclinò il capo e sorrise. «Mi piacerebbe proprio sapere chi siete». «Davvero?» «Mi piacete, anche se mi volete far credere questa storia stupida delle uova d'anatra. Avete dei bambini?» «Sì, ho un figlio, ma non è qui». «Peccato. Io gioco più volentieri con i ragazzi che con le bambine. Dov'è vostro figlio?» «In Svezia. Ma tu non sai dov'è?» «Oh, lo so molto bene. Prendo lezioni di geografia e papà dice: Giuseppina! Giuseppina!» La bambina sospirò. «La mia governante!» Poi chiuse un occhio e fece una smorfia da monello di strada. «È un cataplasma! Ma non raccontatelo, madame!» Lentamente rientrai in casa. Cenammo sole con Ortensia ed Eugenio. «Sapete per caso?» domandò Eugenio a Giulia al momento del commiato. «Quando potremo spedire un corriere all'isola d'Elba? Vorrei informare al più presto l'imperatore della morte della nostra povera mamma e mandargli anche i conti da pagare». Il ritorno si compì nella sera tutta azzurra. Poco prima di Parigi mi venne in mente qualche cosa di importante. Voglio scriverla per rileggerla ogni tanto e non scordarmela mai più. Se si fonda una dinastia, perché non farla anche Charmante? «Una stella cadente! Presto, formula un desiderio!» esclamò Giulia. «E allora mi sono augurata questo, in fretta e probabilmente senza punto riflettere. Gli svedesi la chiameranno Josefina», pensai ad alta voce. «Di un po', di chi stai parlando?» domandò Giulia stupita. «Della stella filante che è proprio ora caduta dal cielo. Solo della stella filante». Parigi, nel tardo autunno 1814. Oscar mi ha scritto dalla Norvegia all'insaputo del suo precettore. Ho incollato la sua lettera nel mio diario per non perderla. Cristiania, 10 novembre 1814. Cara mamma, il conte Brahe manda da qui un corriere a Parigi ed io mi affretto a scriverti specialmente perché il mio precettore, il barone Zederstrom, è costretto a letto da un'infreddatura. Zederstrom cerca sempre di leggere le lettere che ti scrivo per vedere se scrivo osservando tutte le regole. Questo stupido vecchio. Cara mamma, i miei più sinceri rallegramenti. Tu sei diventata proprio ora principessa ereditaria di Norvegia. La Norvegia e la Svezia adesso sono congiunte in un'unione e il re di Svezia è anche re di Norvegia. Abbiamo persino compiuto una spedizione militare con la quale si è conquistata la Norvegia. E ieri sera sono arrivato con papà qui a Cristiania, capitale della Norvegia. Ma è meglio che ti racconti tutto per ordine. L'entrata di papà a Stoccolma, dopo la liberazione della Francia, è stata una cosa unica. Nelle strade per le quali è passato papà in carrozza scoperta vi era tanto entusiasmo e tanta folla che la gente si calpestava addirittura e nessuno vi badava. Sua maestà il re ha buttato le braccia al collo di papà e piangeva dalla gioia come un bambino. Anche Sua Maestà la Regina piangeva, ma con più discrezione. Gli svedesi si sentono di nuovo un popolo di eroi, come ai tempi di Carlo XII, ma papà era stanco, era tristato. Ne sai il motivo, mamma? Sebbene i danesi ci abbiano ceduta la Norvegia, il Parlamento norvegese che si è riunito ad Eidsvoll il 17 maggio ha dichiarato che il paese desidera di essere indipendente. Immaginati, mamma. Papà mi ha spiegato che da alcuni anni c'è a Cristiania un partito che si chiama Scandinavia Unita e vuole un'unione repubblicana degli stati scandinavi. Ma i norvegesi non hanno avuto il coraggio di proclamare la repubblica, così hanno nominato in gran fretta loro reggente un principe danese, soltanto per farci dispetto, capisci? Poi hanno dichiarato che avrebbe difeso la loro indipendenza. Mamma, non si può descrivere l'entusiasmo guerriero dei nostri ufficiali svedesi. Sua Maestà il re, che sta sempre peggio e che quasi non si può muovere per la gotta, voleva partire subito per la guerra, o meglio, voleva salpare. Scongiurava papà che gli desse una nave da guerra e ricordava che lui, da quando è nato, è ammiraglio della flotta svedese. Papà mi ha confessato che in questo momento la Svezia non avrebbe potuto fare la guerra alla Norvegia per più di 3 mesi. La nave da guerra che il vecchio re ha mendicato con tanta insistenza l'ha pagata papà di tasca sua. Il vecchio non lo immagina neppure. Naturalmente io ho detto, se ci può andare il vecchio re, voglio venirci anch'io. E papà non si è affatto opposto. Ha detto soltanto, Oscar, questi norvegesi sono un popolo straordinario. Si arrischiano in questa guerra e hanno appena la metà delle truppe che abbiamo noi e sono quasi senza munizioni. Papà era veramente turbato. Poi mi ha fatto vedere un documento. Leggilo, Oscar, ma attentamente. Io do ai norvegesi la più liberale costituzione d'Europa. Il popolo straordinario ha purtroppo insistito nella sua indipendenza e papà è partito col suo stato maggiore per Strömstad. Noi lo abbiamo seguito, il re, la regina, tutta la corte ed io. Nel porto c'era la nave da guerra promessa al re. Si chiamava Gustav den Store, Gustavo il Grande. E noi ci siamo recati tutti a bordo. 2 o 3 giorni dopo le nostre truppe hanno attaccato la prima isola norvegese. Sua Maestà guardava dal ponte con un cannocchiale. Papà mandava ad ogni momento un aiutante a bordo e gli comunicava che i nostri soldati avanzavano secondo i piani prestabiliti. Quando abbiamo conquistato la fortezza di Kongsten, papà era accanto a me al parapetto. I marescialli von Essen e Adlercreutz erano con le truppe. Da ultimo non potei più resistere al rombo dei cannoni e alle scariche di fucileria e ho afferrato papà per un braccio. Manda un ufficiale dai norvegesi e digli in nome di Dio che possono essere indipendenti. Papà, non fargli sparare addosso i cannoni. Papà ha sorriso. Si capisce che non lo faccio. Noi tiriamo soltanto a salve, come alle manovre. E quegli scoppi che ti fanno tanta impressione sono razzi luminosi. Ma si è poi messo in fretta un dito sulle labbra e ha guardato il vecchio re e la regina che, tutti eccitati, si strappavano l'un l'altro il cannocchiale di mano. Allora, questa non è una vera campagna di guerra, ho detto io a bassa voce. No, Oscar, è soltanto una scampagnata. Ma perché allora i norvegesi si ritirano? Per perché i loro ufficiali calcolano la gittata dei miei cannoni e sanno che io vincerò questa manovra. Del resto i norvegesi non hanno affatto intenzione di tenere queste fortezze. La loro vera difesa comincerà solo ad ovest di Glommen. Non disse altro. In quel momento i cannoni svedesi tacquero. C'era un silenzio di tomba. I norvegesi sgombravano la fortezza di Kongsten. Solo allora papà si fece dare un cannocchiale. E che cosa succederebbe se i norvegesi si ritirassero nelle loro montagne? Potresti inseguirli fino oltre i ghiacciai, papà? E come? Oscar, in tutte le scuole di guerra del mondo si insegna come il generale Bernadotte al tempo suo abbia guidato un corpo d'armata a marce forzate oltre le Alpi. E ad un tratto papà è apparso di nuovo triste e stanco. Allora difendevo una giovane repubblica e oggi, vedi, io privo questo piccolo popolo amante della libertà del diritto di disporre di se stesso. Oscar, si diventa vecchi, si sopravvive a noi stessi. Tutta la campagna di guerra è durata soltanto 14 giorni. Poi i norvegesi hanno chiesto la cessazione delle ostilità. Il Parlamento è stato convocato per il 10 novembre, cioè oggi, per approvare l'unione della Norvegia alla Svezia. Tornammo tutti a Stoccolma e papà ha voluto che il vecchio re passasse in carrozza scoperta per le vie. Il popolo tripudiava e il vecchio signore aveva le lacrime che gli scorrevano giù per le guance. Oltre ai norvegesi, solo i nostri artiglieri sanno che si è sparato soltanto a salve. 4 giorni dopo, papà e io siamo partiti per la Norvegia. Papà era accompagnato dal conte Brahe e dai marescialli Adler, Kreutz e von Essen. Io dovetti cavalcare al fianco del mio inevitabile Zederström. Abbiamo dovuto pernottare sotto la tenda perché papà non ha voluto dar noia ai contadini. Per lo più non si riusciva a dormire a causa del freddo. Da ultimo arrivammo alla cittadina di Frederikskald e lì abitammo in casa del borgomastro. Finalmente papà ci fece dormire di nuovo in un letto. Da Frederikskald facevamo ogni giorno delle lunghe passeggiate a cavallo. Papà voleva conoscere il paese, i contadini ci fissavano e non ci salutavano. Ti unisco una piccola canzone, mamma, che ho intitolata La canzone della pioggia e che ho composto durante quelle interminabili cavalcate. Spero che tu non trovi la melodia troppo triste. Troppo triste. Cavalcammo anche dentro le grigie mura della fortezza di Frederiksten, dove una volta i norvegesi si difesero contro il re di Svezia Carlo XII. Questo re voleva fare della Svezia una grande potenza e conquistare la Russia. Ma in Russia la maggior parte delle truppe morì per il gelo. Allora andò in Turchia per battere i russi da quella parte. Alla fine gli svedesi non poterono più trovare il denaro per le sue guerre. Lui allora volle conquistare la Norvegia e all'assedio di Frederiksten lo colse una palla. Mentre cavalcavamo tra la pioggia e la nebbia ci spuntò improvvisamente davanti una gran croce di legno. In questo luogo è caduto Carlo XII, vi si leggeva. Siamo scesi tutti da cavallo. Papà mi chiamò a sé con un cenno. «Oscar, qui è caduto il più grande dei dilettanti in materia militare. Promettimi che non guiderai mai tu stesso gli svedesi in guerra». «Ma papà, tu sei anche comandante in capo», osservai. «Io ho incominciato da sergente e non da principe erede», disse lui. Allora Essen e Adler Kreutz incominciarono a recitare un Pater Nostro. Papà non pregava con loro, ma guardava sempre me. Papà non prega mai». Quando i marescialli dissero Amen, lui si voltò in fretta e continuammo il viaggio. «Ma io credo che la palla da cui fu ucciso il nostro eroico re venisse dalle sue stesse file», disse improvvisamente. «Ho studiato tutti i documenti che ho potuto trovare su questo fatto. Quell'uomo era una disgrazia per la Svezia. Dimenticatelo, ve ne prego, dimenticatelo!» «Altezza, a questo riguardo le opinioni sono divise», disse Adler Kreutz offeso. «Mamma, tu dovrai sempre parlare con prudenza di Carlo XII. Ieri sera, finalmente, siamo entrati a Cristiania in una carrozza di gala che avevamo fatto venire da Stoccolma. Credo che papà si aspettasse luminarie e acclamazioni. Invece le strade erano completamente buie e deserte. A un tratto, da qualche parte, tuonarono delle cannonate nelle tenebre. Papà sussultò, ma erano soltanto salve di saluto. Io l'ho pensato subito. La carrozza si è fermata davanti al palazzo dell'antico governatore danese. Una compagnia d'onore ha presentato le armi. Papà guardava inorridito le uniformi fruste e gli stivali disuguali dei soldati. Poi ha osservato il palazzo, che ha l'aspetto di una comune casa borghese. Ha un solo piano e molto modesto. Ha crollato il capo e si è precipitato a lunghissimi passi nell'unica sala del palazzo, e io dietro di lui. Poi i marescialli e gli aiutanti a passo di corsa per tenerci dietro. Deve essere stata una scena buffissima. Il presidente del Parlamento norvegese e i membri del governo ci aspettavano. Un grande fuoco di legna gettava dei bagliori rossi oscillanti su quella tetra assemblea. Papà aveva un mantello viola di parata e il cappello con le piume di struzzo. Il presidente dello Storting, Christie, ha salutato papà in ottimo francese. Papà ha inalberato il suo sorriso irresistibile, ha stretto la mano a quei gravi signori e ha portato il saluto di Sua Maestà il Re di Svezia e di Norvegia. Dopodiché i tetri signori facevano dei grandi sforzi per non ridere forte. Credo che i norvegesi abbiano un senso umoristico, perché il vecchio di Stoccolma non c'entra proprio per niente in questa unione. Essa è esclusivamente opera di papà, e papà ha attaccato subito un grosso discorso. La nuova Costituzione della Norvegia, signori miei, difende i diritti dell'uomo per i quali io già scesi in campo a 15 anni in Francia. Quest'unione è più che una necessità geografica, è per me un bisogno del cuore. Ma tutto ciò sui norvegesi non ha fatto effetto. Essi non ci perdoneranno mai le cannonate a salve e i razzi luminosi. Accompagnai papà nella sua camera da letto e ho visto che si toglieva tutte le decorazioni e le buttava disgustato sul tavolino della toeletta. Poi ha detto: "Ieri è stato il compleanno di tua madre. Speriamo che le nostre lettere le siano giunte in tempo." E ha tirato le tendine del letto. Cara mamma, papà mi fa tanta pena. Ma non si può essere insieme principe ereditario e repubblicano. Scrivigli, te ne prego, una lettera buona e allegra. Alla fine del mese saremo di nuovo a Stoccolma e adesso mi cascano gli occhi dal sonno e il corriere aspetta. Ti abbraccia e bacia affettuosamente tuo figlio Oscar. Post scriptum. Non potresti scovare a Parigi la settima sinfonia di Monsieur Beethoven e mandarmela? Il corriere portò anche una lettera del conte Brahe a Rosen. D'ora innanzi, nei giorni di festa, dovrà essere issata nella casa di Vostra Altezza la bandiera norvegese accanto a quella svedese e dobbiamo far dipingere sulla carrozza anche lo stemma di Norvegia, mi annunciò agitato. Sua Altezza è più grande di Carlo XII. Io lo pregai di darmi una carta geografica e cercai il secondo paese del quale adesso sono principessa ereditaria.